walk. Praise the Jack. Praise the Jack. Ha detto calma, ha detto basta. A C, A B, al cop, al basta. Se siamo insieme siamo forza, tanta maggiore nada. Saluto camerata, niente nonismo e strada. Se impara, un piede in una branda, l'altro nella bara. E per chi bara, c'è sempre uno che spara. Niente divise per noi ragazzi del campetto. Divise sporche solo per giocare a calcetto. La coscienza non si lava, la coscienza grava su ogni anima, in ogni camera. Se vuoi lavarti lavi fuori stronzo. Aggiungi profumi e odori, la puzza te la porti dentro quando sei allo stretto e muori. Poche lavatrici per sta gente che d'umiltà lo vedi dentro agli occhi. Che non sa che il cazzo dice, allora in bici minorenne scappo tutto di corsa, mi ritrovi in mezzo a 5. Il più grosso conosce la gang, lo conosco, sa che son l'orco maggiore, chiamami orsa. Conto un cazzo di sti sbirri, bastardi, da quando l'ho incontrati. Un periodo si sono affezionati, il commissariato sembrava un salotto privato. Fortuna che un amico mi teneva calmo, perché avevamo il pacco. Stressato esco l'una di notte, col cazzo ad annano. Il pacco in palla, la serata ancora non è iniziata. Correndo penso di fuggire via, la mente e la vita dallo sguardo della sbirra. E interrogandomi alla polizia, zero simpatia, giuro c'era empatia. Dammi una cuffietta e scappo via, lontano da sirene, carambe e polizia. Brother, con la musica la città è mia. Arezzo calma, Arezzo basta. A, C, A, B, A, Coppa, basta. Arezzo calma, Arezzo basta. A, C, A, B, A, Coppa, basta. Arezzo calma, Arezzo basta. A, C, A, B, A, Coppa, basta. Arezzo calma, Arezzo basta. A, C, A, B, A, Coppa, basta. Arezzo calma. Za. Praise the Jack, walk. Praise the Jack. Praise the Jack. Praise the Jack. Epicentro terremoto, Monella, Arezzo centro, cataclisma, vesta cinta fantasma. Tanti sbirri a metro quadro che mi inquadro una, altro cinque un metro. Straniero, faccio un giro, manca l'aria, il rap e mio tubetto d'asma. Plasmo tutto il resto, portando serenità, tanta calma in ogni rima. Che sarcasmo, ad ogni imbattito di ciglia diventa un orgasmo. E sì che sbaglio, come ogni umano. Giocate a fare gli uomini e vi tirate indietro, come chi butta il sasso e nasconde la mano. Giochi da villano, urlo fanculo ACAB, ACAB fanculo. Accumulo per ogni basso un globulo. In basso al frenulo, non temo nessun confronto. Affronta a testa alta, spiri e loro figli che degenerano. Come tutti quelli in realtà solo, e ripeto solo, a parole amano.